Versetto 1. Questa parabola è propria di San Matteo e fu detta per spiegare l'ultima sentenza del capo precedente. È simile al regno, eccetera, cioè avviene nel regno dei cieli come se un padre di famiglia, eccetera. Versetto 2. Un denaro valeva circa 78 centesimi di lire del 1911. Era questo il salario ordinario dei lavoratori. 3. Ora, terza corrisponde a circa le 9 del mattino. Gli ebrei contavano 12 ore dallo spuntare del sole al tramonto, le quali erano più lunghe di estate e più corte d'inverno. Gli operai erano soliti di radunarsi sulla piazza, aspettando venisse qualcuno a ricercarli. Versetto 4. Circa l'ora sesta, cioè verso mezzogiorno, ora nona, cioè verso le ore 3 pomeridiane. Versetto 6. L'undicesima ora equivale a un'ora prima del tramonto, cioè verso le 5 del pomeriggio. Versetto 9 e 11. Il padre di famiglia non aveva con questi ultimi pattuito alcuna mercede, perciò i primi, al vedere che li trattava con sì gran bontà, mentre avevano lavorato per sì poco tempo, si aspettavano che loro fosse corrisposto qualche cosa di più di ciò che era stato pattuito, ma vedendosi delusi nelle loro speranze, mormorarono del padre di famiglia. Versetto 15. È cattivo il tuo occhio. Nella Sacra Scrittura, nelle lingue orientali, l'occhio malvagio è immagine dell'avarizia e della gelosia e designa spesso un uomo avaro e invidioso. Gesù vuol dire: vedi tu forse di malocchio che io sia buono? Versetto 16. Così saranno ultimi i primi, eccetera. Questa sentenza è la conclusione, la spiegazione di tutta la parabola. Quelli che furono chiamati i primi verranno equiparati agli ultimi, nonostante che avessero portato il peso della giornata e del caldo, e quelli che furono chiamati gli ultimi verranno equiparati ai primi, nonostante che avessero lavorato un'ora sola. Coi primi fu osservata la giustizia, ovvero quanto loro era stato promesso. Con gli ultimi il padre di famiglia volle far pompa della sua bontà e della sua misericordia, dando loro la stessa mercede che ai primi. La parabola, che in generale contiene una giustificazione della provvidenza di Dio nella distribuzione dei suoi beni, fu diversamente interpretata dai padri. Secondo l'opinione più probabile, Dio è il padre di famiglia che prende i lavoratori, ossia gli uomini, e li manda a lavorare nella sua vigna, cioè nella sua chiesa, o più in generale nell'osservanza dei suoi comandamenti. Le varie ore della giornata significano le varie età della vita, nelle quali Dio chiama gli uomini al suo servizio, cioè la puerizia, l'adolescenza, la gioventù, la virilità e la vecchiaia. La sera è la fine del mondo, ossia il giudizio universale. Il fattore è Gesù Cristo. Il denaro rappresenta la vita eterna. La condotta generosa del padre di famiglia verso i lavoratori dell'undicesima ora mostra che ognuno deve disperare della propria salute, poiché in ogni tempo può convertirsi a Dio con la certezza di essere da Lui accolto. L'avere poi dato a tutti la stessa mercede fa vedere come Dio, nella distribuzione del premio, non ha riguardo all'essere stato l'uno chiamato prima o l'altro più tardi, né all'avere lavorato l'uno per breve e l'altro per lungo tempo, ma unicamente alla quantità della grazia di cui ciascuna anima è rivestita. Dio poi è padrone della grazia, della sua grazia, e la distribuisce a chi vuole e come vuole, e al convertito dell'ultima ora può darne tanta da equipararlo nel merito a colui che fin dal mattino della vita si è dato al suo servizio. Ognuno, pertanto, ha motivo di gloriarsi e di preferirsi agli altri per avere più lungo tempo servito al Signore, oppure per aver fatto o sofferto maggiori cose per Lui, giacché può essere che colui che si crede nulla aver fatto per il Signore in realtà abbia una grazia e quindi un merito uguale e non superiore davanti a Dio. Alcuni padri e parecchi esegeti applicarono questa parabola anche ai gentili, i quali, benché chiamati a entrare nella chiesa all'ultima ora dopo gli ebrei, tuttavia furono uguagliati a questi nella felicità eterna e li superarono per numero e per santità. Da altri esegeti la parabola viene così spiegata: il popolo ebreo fu chiamato per il primo al servizio di Dio, ma tuttavia sarà l'ultimo a ricevere il danaro, cioè a entrare nella chiesa, poiché prima vi entrerà la pienezza delle genti. Dio non commette alcuna ingiustizia bandendo le sue grazie sui gentili, benché questi per lunghi secoli abbiano vissuto lontani da lui. Vedi Cranpon. Giova inoltre ricordare che nelle parabole non bisogna cercare sempre una corrispondenza perfetta tra l'allegoria e la verità. poiché molti elementi della parabola entrano semplicemente come ornato. Così, per esempio, nella parabola del padre di famiglia, le mormorazioni degli operai della prima ora, eccetera, sono ornamenti che non hanno una corrispondenza nella realtà, poiché i santi non mormoreranno mai di Dio, né mai criticheranno il suo modo di agire. Dice: molti sono chiamati, eccetera. Queste parole mancano nei più antichi codici. Si ritrovano però in quelli di Efram, di Beza, eccetera. Esse formano la conclusione di un'altra parabola, 22:14, dove sono in relazione col contesto, mentre qui appaiono staccate e non sembrano aver che fare con la parabola precedente. Dice: vedi il Santo Vangelo, eccetera. Ad ogni modo, si può vedere in esse il motivo per cui i primi sono diventati gli ultimi e gli ultimi sono diventati i primi. Dio chiama molti con grazie ordinarie, i quali, per loro colpa, non corrispondendovi pienamente, rimangono perciò gli ultimi. Mentre ne chiama e elegge pochi a grazia straordinaria, e questi, corrispondendovi pienamente, diventano i primi. Nei chiamati, perciò, si manifesta la giustizia di Dio, negli eletti, invece, appare in modo speciale la potenza della grazia.